Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il nostro Federico Pontigia. Fede, ben trovato, auguri e eccoci qui. Auguri anche a voi, ben trovati. Allora, con te per un bilancio di quest'annata cinematografica 2018, a partire da gennaio fino ad oggi, e poi vedremo anche i tuoi cinque preferiti. Innanzitutto un po' anche per, come dire, per sfruttare al meglio una memoria sempre più labile, vorrei rivelarti che, in parte anche seria come osservazione, che io credo quest'anno di essere stato meglio per quello che non ho visto rispetto a quello che ho visto. Cioè, si parla in tantissimi ambiti di ecologia, della necessità dell'ecologia. Ecco, secondo me sempre più la dobbiamo applicare anche a quello che guardiamo, a quello che vediamo, sia piccolo, grande lo schermo su cui lo facciamo. Quindi un anno, il 2019, che come il 2018 sia l'insegna dell'ecologia dello sguardo. Detto questo, è stato un anno non mirabolante per la situazione in cinema in generale. Se è vero che gli ultimi dati, soprattutto della Gran Bretagna e del Nord America, fanno capire come la minaccia Netflix e dello streaming in generale non si ripercuota così nocivamente sulle presenze in sala, anzi sembrerebbe indicare che si aggiunge l'esperienza in sala e non la mortifica, non la mutila. Ma detto questo, Netflix è stato di sicuro, per quanto riguarda soprattutto i festival, il player, l'attore più importante dell'anno. Ci ricordiamo ancora bene la querella di Cannes con il festival supportato, anche, come dire, prostrato anche alle esigenze dei distributori francesi, degli esercenti francesi e della legge francese. Ecco, una querella che con il mancato approdo sulla corazzetta dei titoli Netflix ha fatto poi la fortuna di Venezia. Il Leone d'Oro di Venezia a Roma di Alfonso Cuarón, peraltro assegnatele dalla giuria presieduta dal sodale Guillermo del Toro, connazionale messicano, ha fatto sì che Venezia appunto potesse risplendere nel modo più diretto e più esplicito di questa querella tra Cannes e la piattaforma streaming di Red Hastings. Detto questo, aggiungo, Federico, aggiungo su Roma che avrebbe dovuto stare in sala in realtà pochi giorni e poi passare su Netflix, in realtà in sala ancora ci sta. C'è ancora in sala perché questo corrisponde a un cambiamento fatto da Netflix per tre film a partire dall'America. Questi tre film sono The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen, sono Roma di Alfonso Cuarón e sono... c'è un altro film che da noi manco è arrivato con Sandra Bullock, Time Box, credo che si chiama, ma non sono sicuro. Ecco, non solo non c'è stata più la release contemporanea, pensiamo a Sulla mia pelle, per intenderci, lo stesso giorno sala e distribuzione streaming. Viceversa, questi film anche a Roma sono usciti prima in sala e poi sono approdati sul servizio streaming, ma in tanti casi l'approdo sul servizio streaming non ha inibito le sale, quindi gli esercenti, dal poterlo tenere. Penso al cinema Farnese, per esempio, a Roma. Quindi anche questo è una modifica della strategia di Netflix. Sì. Dicevamo poi dei messicani, di Alfonso Cuarón e di Guillermo del Toro. Guillermo del Toro che tra l'altro farà adesso l'agoniato Pinocchio per Netflix, è un altro di quelli come il nostro Garrone che per Pinocchio travede, lo vorrebbe adattare presto, lo farà in un modo gotico come Dark e gotico come gli appartiene abbastanza. Ecco, detto questo, loro due, il terzo, Iñárritu, li chiamano i tre amigos, si sono spartiti quattro degli ultimi cinque Oscar per la regia. Quindi a dire del loro strapotere, uno strapotere in cui adesso è subentrato anche Netflix, e proprio da questa alchimia dovrebbe nascere di qui a pochi mesi, il 22 gennaio le nomination, il 24 febbraio la notte degli Oscar, l'assalto definitivo della piattaforma streaming agli Academy Awards. Detto questo, per venire un attimo in Italia per concludere, è stato un anno che ha riportato qualche premio in bacheca, penso a Lazzaro Felice, il premio di Zecco per la sceneggiatura, contro i Casey di Panay a Cannes, e il trionfo duplice sia a Cannes sia ai recenti European Film Awards di Marcello Ponti, allora, ovvero lo straordinario protagonista di Dogma di Matteo Garrone. Però è un anno che ha stigmatizzato per l'ennesima volta come i film buoni si contino sulle dita di una mano, soprattutto se una di queste due mani è mutilata, non arriviamo a 10 buoni titoli italiani in un anno, e che mai come quest'anno abbiamo assistito a un fenomeno, brutte commedie, alcune addirittura inguardabili, che ancora di più degli anni precedenti non hanno nemmeno trovato una consolazione, una rassicurazione in sala, cioè brutti film visti da pochi. Ecco, questo è detto qua durante le feste, suona paradossale, ci faccia riflettere per l'anno prossimo. I 5 film. Allora, 5 film non li metto in ordine di gradimento perché farei fatica. Metto Sunset di Laszlo Nemes, non è straordinario come Il figlio di Saul, ma è un grande film, uno di quelli da sostenere, arriverà per 3 giorni in sala, credo, a gennaio. Poi ancora, anche se non ha esaltato cinematograficamente, ma ha riportato il cinema al centro dell'agorà, non solo come fatto estetico, ma soprattutto come fatto sociale, quindi Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, sul caso Cucchi, era un film che mancava da tempo. Poi ancora italiano Dogman di Matteo Garrone, che si conferma, io credo oggi, senza troppi dubbi, il nostro più grande interprete, e aspettiamo ovviamente il suo Pinocchio. Poi un film piccolo americano che ho trovato molto interessante, Leave No Trace, Senza lasciare traccia, di Debra Granit, un film supportato da grandi interpretazioni, soprattutto quella di Ben Foster, e vedremo se poi lo ritroveremo in qualche modo agli Academy Awards. E poi mi devi permettere una deroga, perché è vero che questo film l'ho visto quest'anno, l'ho visto 2 volte, al Torino Film Festival, della giornata dedicata a questo grande maestro, e poi a Terzo Millennio Film Festival. Il film che ho visto quest'anno in realtà del 67, un mediometraggio, l'ha firmato Ermanno Olmi, un grande maestro scomparso quest'anno, mi ricordo che ebbi la notizia quando arrivavo a Canto di Festival, dopo sarebbe scomparso anche Bernardo Bertolucci. Ebbene, questo La Cotta è il film di un grande maestro e di un giovane che avrebbe avuto un grande futuro. Non so, credo sia in un extra del DVD del posto di Criterion Collection, credo passerà, almeno lo vorremmo fare, su Rai Movie 3, è un grandissimo film, è il film che mi è piaciuto di più quest'anno. Ok, considerato che il primo che hai citato uscirà inizio gennaio, hai un altro titolo di riserva? Ho un titolo italiano, Manuel. Manuel. Okay. Un altro grande titolo, mi è piaciuto anche La Terra dell'Abbastanza, ma credo che nel Manuel abbia qualcosa in più riguardo soprattutto la direzione degli attori. Ecco, qualcosa a livello di giovani si sta davvero muovendo, Manuel e Niccolò Catelli credo sia l'esempio migliore. Bene. Fede, è sempre un piacere, un abbraccio, speriamo un abbraccio. Di vederci in sala. Auguri. Auguri anche a voi. Ciao. Ciao. Con Federico Pedroni per parlare dell'annata cinematografica da gennaio a dicembre e poi per svelare la sua cinquina, i suoi film preferiti tra quelli usciti in sala. Federico, ben trovato. Buongiorno a tutti voi, ciao. Ciao. Che ne dici di quest'annata? Ma guarda, ne discutevo, come al solito, cioè è il periodo in cui tutti noi ci divertiamo tantissimo a fare tutte le classifiche, le classificone, i 10, i 50, i 100 film più belli dell'anno. Mi è sembrato, ripensandoci, che sia stata un'annata con non tantissimi bei film, ma quelli belli lo erano particolarmente, cioè altri studenti in questo giochino che facevamo, era sempre difficile per me tenere fuori molte cose che mi erano piaciute tantissimo. Quest'anno in realtà mi sono reso conto che di film me ne sono piaciuti una quindicina, una ventina, ma quelli mi sono piaciuti davvero, quindi penso che sia stato un anno particolare perché sia stato non altissimo nella sua media, ma con dei picchi veramente notevoli. Questo è un po' il ragionamento fatto. Vale anche per il cinema, sia per le cose viste ai festival, sia le cose uscite in sala, sia anche per il cinema italiano, che appunto ha avuto, secondo me, non tantissimi titoli notevoli, ma quelli belli erano belli veramente. Okay. Questo è un po' una riflessione che mi è sembrato di fare appunto nella ripercorrere l'anno per i giochini di fine anno, come quello che stiamo facendo anche noi adesso. Però 5 era complicatissimo trovarli, 5 è stato proprio difficile. Ah, ok. No, perché insomma appunto, insomma, c'erano secondo me almeno una 10-12 titoli davvero belli, con poi dei picchi assoluti sui quali appunto non avevo esitazioni, però appunto sono rimasti fuori delle cose di cui mi vergogno. Anche prima della telefonata, mentre stavate per chiamare, stavo dicendo no, metto questo, metto quello, perché c'erano 2-3 che veramente mi pongono delle difficoltà a lasciarli fuori. Li possiamo sempre menzionare, però. Ah sì sì, io, sempre quelle cose tremende, quelle deviazioni dette così a caso per dire un titolo in più, dei trucchi banalissimi di cui ci serviamo. Allora arriviamo ai tuoi 5 allora. Beh, allora, partiamo con un trucco, cioè mettiamo quinto, ho messo The Post di Steven Spielberg, che è un modo di dire che Spielberg in quest'anno ha fatto 2 film per me eccezionali entrambi, che sono The Post e Ready Player One, diversissimi tra di loro. La cosa incredibile è che appunto un regista riesca a fare 2 film del genere, cioè non 2 film, non so, camera e cucina girati con poche cose, ma 2 film così grossi di budget, di ambizione, di racconto, eccetera, eccetera, con 2 stili così completamente diversi, ma che riescono ad essere uno con una passo più classico, uno invece con un rimescolamento di tutte le carte del cinema spettacolare di oggi, così moderni e contemporanei. Scelgo The Post tra i 2 perché The Post è un film, secondo me, che appunto ha dietro una classicità di racconto piuttosto evidente, che tutti hanno rimarcato, c'è in realtà un ragionamento sul contemporaneo, sul modo di raccontare, sulla narrazione, sulla messa in scena, su quello che voglia dire ancora lavorare con gli attori, che è davvero importante e che va al di là di un tema importante come appunto la diffusione dell'informazione e la sua potenziale manipolazione, che è un tema mi sembra molto attuale, anche se la storia racconta di un altro periodo storico e lo fa appunto con una messa in scena che rimanda a un certo cinema politico degli anni 70. Insomma, Spielberg secondo me continua a dimostrarsi uno veramente degli autori grandi e importanti e non di intrattenimento e basta, come troppo spesso viene detto del cinema contemporaneo, insomma, e non solo americano. Okay. Un quarto che mi è piaciuto così tanto, negli anni non me lo ricordo, quarto è un film in sala, quindi anche un consiglio, diciamo un trailer, che è Cold War di Pavel Pavlikovsky. Cold War è la storia di questo amore maledetto e diciamo però inscindibile, che attraversa 30 anni di storia europea, insomma, attraverso la Polonia, la Jugoslavia, Parigi, Berlino, l'Europa divisa in 2 degli anni 50 e 60. È un film che dietro anche qui una patina meravigliosa di 4/3, formato classico, una fotografia smagliante in bianco e nero, su cui Pavlikovsky in realtà parla moltissimo di quello che sono anche le divisioni tuttora. Usa le armi del melodramma per raccontare una storia che mette in discussione, oltre che in scena, certezze e dubbi di quello che noi vogliamo chiamare Europa. E qua faccio l'altro trucco, perché è rimasto fuori un altro film che in maniera completamente diversa ragiona sugli stessi temi, è un film bellissimo, che è Transit, tradotto fantasiosamente in italiano La donna dello scrittore di Christian Petzold, che è un altro film che attraverso un racconto del passato mette in scena le fratture e le divisioni del presente. Quindi insomma sono 2 film che sarebbe interessante proprio anche vedere vicini, ecco, come cosa. Allora, tra l'altro ti dico che su The Post e Cold War sei anche parallelo alla mia cinquina, insomma, sono due Ah, titoli hai che hai già visto? inserito. Adesso sicuramente ci divergeremo perché il terzo è un film su cui si è discusso molto, ormai è un film uscito quest'anno, quindi lo metto che è uscito quest'anno. In realtà era un film dell'anno scorso, era Venezia 2017 ed è stata una delle mie folgorazioni dell'anno passato, poi è uscito quest'anno in sala e quindi me la rigioco, che è Maktoub My Love, canto 1 di Abdelaziz Kechiche, che è un film su cui si è molto discusso, come già se ne è discusso in parte per La vita d'Elle, soprattutto per questo sguardo molto maschile, molto desiderante che Kechiche mette in scena. Per me è un film folgorante perché è un film che dura 3 ore, che potrebbe durarne 30, perché è una specie di continuo flusso di cose che accadono, gente che parla, che mangia, che scopa, che guarda, che cammina, che va alla spiaggia, che fa il bagno. E che ci c'ha questo dono di cui io sono vittima completa perché mi soggioga ogni volta con i suoi film, di mettere in scena la vita così com'è, come senza infingimenti. Qua in realtà, tra l'altro, rispetto ad altri suoi film, è un film che racconta in parte della sua giovinezza, è parzialmente autobiografico, e ha una vena nostalgica e un amore per il giovane in quanto belli, in quanto tali, in quanto energici, in quanto vitali, che a me conquista completamente. Secondo me è un film straordinario e appunto mi sorprende trovarlo solo terzo, perché i primi due, e non saprei fare la classifica, per me è un ex aequo, perché sono due film che per me non sono i due film più belli di quest'anno, ma sono i due film più belli degli ultimi anni in assoluto. Sono appunto Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson e Roma di Alfonso Cuarón. Paul Thomas Anderson fa un film perfetto formalmente, ma terribile sotto certi aspetti, perché racconta i meccanismi della creatività artistica e della coppia e l'impossibilità di vivere in maniera sana un rapporto di coppia e di vivere parallelamente in maniera sana una propria esistenza creativa, e lo fa attraverso un gioco appunto che va dal quasi film, quasi in costume per la bellezza degli abiti, il protagonista è un sarto, al melodramma ma con un tocco ironico, appunto ha dei momenti di dramma familiare, dramma sentimentale, insomma è un film talmente sfaccettato, talmente perfetto, talmente misurato, talmente ben scritto, talmente accurato nelle ricostruzioni degli ambienti, degli abiti, delle psicologie, talmente ben recitato, non solo da Daniel Day-Lewis, ma dal meravigliosa Vicky Krieps, che è stata un'attrice lussemburghese che non avevo mai visto e che è stata una mia folgorazione di quest'anno, che davvero l'ho trovato un film fantastico. Fantastico, e pensavo che non potesse avere nessuno che gli tenesse testa nel mio cuore quest'anno, finché non ho visto appunto il film di Alfonso Cuarón, non entro proprio nella polemica sala, Netflix, le cose. Io non lo avevo visto a Venezia perché riesco sempre a perdermi l'unico film che vince poi il festival, e in questo caso, che è probabilmente proprio il più bello dell'anno, l'ho recuperato. Io l'ho visto prima in sala e poi l'ho rivisto su Netflix. È chiaro che la sala, soprattutto per il modo in cui Cuarón racconta, il film è un film liquido, un film fluido, un film in cui non c'è la fretta, non c'è, bisogna lasciarsi andare, c'è un lavoro pazzesco sulla fluidità appunto dell'immagine, c'è questo continuo girovagare di una macchina da presa che te devi, penso, la quale devi seguire, entrare, lasciandoti proprio trascinare come fosse un fiume, dell'acqua corrente. E lo stesso lavoro è fatto anche sul suono, ci sono dei carrelli appunto anche sonori davvero incredibili, che il problema della sala rispetto alla casa è proprio un fatto di concentrazione. Cioè io quello dico, vedetelo anche su Netflix, vedete come vi pare questo, però staccate telefoni, chiudete le porte, non rispondete a nessuno, perché il problema molto spesso della visione non è soltanto la dimensione dello schermo, ma proprio la capacità di lasciarsi trascinare dal film. Cuarón racconta questo bianco e nero pazzesco, ed è i primi cinque film metto due film in bianco e nero, quello appunto, quello di Capel Pavlikovsky, e questo che racconta una storia di due donne e di quattro bambini nel Messico degli anni 70. C'è la sottotrama politica, c'è la sottotrama del racconto di delle infanzie di cui appunto anche qua con dei sentori autobiografici da Cuarón, ma c'è la messa in scena appunto di questi personaggi con un tale amore, con una tale passione, con un tale trascinamento proprio, che finalmente io che detesto il cinema stitico che è troppo in voga in questi anni, questa empatia quasi metafisica, questo amare le storie che si raccontano, pur non facendo dei santini, ma raccontando delle storie vere, mi ha completamente fatto innamorare. Ecco, per me Roma è un modo di raccontare davvero incredibile. Cuarón ha trovato, dopo aver fatto un po' di tutto, cioè sono lui un regista affascinantissimo, ha fatto dal più bello Harry Potter per tutta la saga a dei film, come Gravity, che è un film di fantascienza che mangia in testa con meno mezzi spettacolari a tutti i Nolan di questa terra. Ha fatto cinema di cassetta e cinema d'autore con Roma, e quindi qua travalica proprio il discorso metriche cose, fa veramente una cosa che potrebbe essere una nuova apertura a quello che vuol dire cinema d'autore oggi, cioè non avere paura di raccontare anche storie che siano popolari, ma con un lavoro sullo stile che non cede di un millimetro. È un film veramente, veramente, per me folgorante, ecco. Sì. E l'ho fatta lunga. ma è difficile, cioè è un film che lavora dentro. Io l'ho visto da un mesetto e continuo a pensarci quotidianamente, davvero, raramente mi è rimasto, perché poi ti vengono in mente dei flash, delle scene che pensavi secondarie, che invece fanno parte di una costruzione più ampia. Insomma, è un film su cui veramente va visto e rivisto, e grazie a Netflix, se uno c'ha Netflix, può vederlo e rivederlo con una certa frequenza, ecco. Bene. È un film che va studiato. Allora Federico, ci si vede in sala, un abbraccio e buon anno, auguri a tutti. Auguri. Buona serata dal cinema. Ciao. Siamo con la nostra Anna Maria Pasetti per fare un bilancio di quest'anno cinematografico a partire dal gennaio 2018 fino ad oggi, e poi per i consueti cinque titoli tra i film usciti in sala. Annina, ben trovata. Ben trovato Federico e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, sempre un piacere essere presente a fine anno. L'anno comandato, ma insomma è difficile ormai, no, dire come vanno questi anni, perché con il cinema sembra più o meno assomigliarsi quasi tutto ovunque, no? È difficile trovare qualcosa di veramente straordinariamente originale, no? Mm-hmm. Però parlo anche di opere di qualità, penso che quest'anno sia stato un po' lo spartiacque, lo si è definito un po' l'anno di Netflix, e questo non solo da un punto di vista del mercato, ma anche proprio come è cambiato il modo di farlo il cinema, di percepirlo, di recepirlo. I grandi autori, grandissimi autori, quindi Cuarón, si sono affidati a Netflix, e da lì il Leone d'Oro Roma ha scatenato il putiferio, insomma. Questo perché? Perché dei grandissimi film non si vedono più magari sul grande schermo, o comunque si vedono poco sul grande schermo e soprattutto sulle piattaforme. Sì. Questo è un po' quello che ha segnato il cinema, mi sembra, no, nel 2018. Sì. E rispetto a quello che hai visto? Sì, ho visto diverse cose interessanti, molto, molto, molto seducenti, molto di valore, tant'è che fare cinque scelte sempre veramente infernale, quindi per me ci sono sempre le menzioni che possono funzionare, sì. Anche se tu non le ami le menzioni, però insomma mi sembra doveroso alla fine della mia cinquina almeno segnalare dei film, se si può, poi tu tanto sì. lo rimetterai nella... Allora, io il mio film, dunque, quest'anno ci sono tre film stranieri e ben due italiani, ma è successo nella mia... Sì, sì, quindi per me tre stranieri non sono in ordine di gradimento, però insomma... o anche sì, non lo so, fai un po' come ti pare. Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, che per me è l'ulteriore conferma di un talento straordinario, in più con l'ultima diciamo prova di recitazione per il cinema di Daniel Day-Lewis, così almeno sembra. Cold War di Paweł Pawlikowski, che tra l'altro è uscito da pochissimo, è uscito l'altro ieri in sala. Sicuramente anche tra i miei Cold War. Ecco, e poi Roma di Cuarón, che ho già citato appunto, che ha vinto l'Orso d'Oro, Leone d'Oro, e che è ancora a Roma, so che è nella al Farnese, ancora tipo fino al 26 di dicembre, è visibile, oltre che su Netflix. Okay. E poi due italiani, sono Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, perché credo che siano veramente due lavori, cioè non mi sorprende vederli così bravi, ma mi ha sorpreso godermeli così intensamente, ecco, questi due film. Menzioni sono tante, ma sono tutte di valore, tutte, cioè veramente ci sono alcuni film che avrei potuto inserire senza nessun problema, Un affare di famiglia di Kore-eda, che ha vinto peraltro la Palma d'Oro a Cannes. E sarà tra i miei cinque sicuramente, Un affare di famiglia. Vedi. L'albero dei frutti selvatici di Nuri Bilge e Jay Lance, come il suo film più bello, che questo era Cannes. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh, un film veramente scoppiettante, così americano da essere girato da un inglese, nota la mia sottigliezza. The Post di Steven Spielberg, molto che è tra i miei, sì. Poi Visage Village di Agnès Varda, secondo me un'opera meravigliosa. E metto per ultimo, ma non è ultimo nel senso, però ecco, un film finalmente tedesco, perché i tedeschi insomma non è che riescano sempre a farci stupire, Transit di Christian Petzold. Ok. E questi sono un po'. Poi ecco un'altra menzione finale, ma forse più perché gli ho voluto molto bene a questo film, che è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Magari appunto non è un film di quelli che dici ti mi strappo per la regia, no, mi strappo le vesti, però credo che gli si debba voler bene a questo film, cioè forse uno dei primi piani più intensi dell'anno, il finale. Ecco. Bene. E quindi ecco, ho dato. Bene, bene. E allora Dina, un abbraccio e speriamo di vederci in sala e auguri. Auguri a voi, auguri a te e anche a tutti quelli che interverranno a questo ormai storico sondaggio. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, ciao ciao. Con Giona Nazzaro. Giona, ben trovato. Ben trovati, ben trovati. Facciamo intanto un bilancio di questo anno cinematografico 2018. Beh, come saprai, questo anno è stato, per quanto mi riguarda, estremamente intenso, non necessariamente per ragioni, come dire, non solo per ragioni spettatoriali, ma anche e soprattutto per ragioni di lavoro, essendo stato la conclusione del mio primo triennio in quanto delegato generale della sezione della critica di Venezia, e quindi è stata un'esperienza che si è conclusa molto positivamente, considerato che il film che ha vinto il premio del pubblico della settimana della critica, il documentario Still Recording sulla guerra in Siria, è ancora in sala dopo che è stato distribuito subito dopo a Venezia, e quindi il fatto di essere riuscito a portare in sala un documentario realizzato da due studenti di cinema mi sembra un risultato importante, però questo potrebbe rischiare di sembrare agli orecchi degli ascoltatori quasi autopromozione. Per quanto riguarda il resto del cinema, mi è sembrato comunque un anno estremamente interessante. Poi per costituzione sono sempre portato a vedere, quando si tratta di cinema, il bicchiere mezzo pieno. Per quanto si riguarda di politica e altre cose, sono sempre dell'opinione che il bicchiere è mezzo vuoto, però queste sono considerazioni all'atere. Hai i tuoi cinque preferiti per quelli usciti in sala? Assolutamente sì. Ok. Direi che tra quelli usciti in sala quest'anno in Italia, Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher siano senz'altro i titoli italiani più di rilievo. Poi, ovviamente, parliamo sempre dei film usciti quest'anno in sala, quindi magari sono usciti l'anno prima ancora in qualche festival. Il film di Paul Schrader, First Reformed, mi sembra un risultato davvero clamoroso. Poi, è impossibile non citare Dogman di Matteo Garrone, perché è la dimostrazione che Garrone è uno dei nostri cineasti più solidi e in grado di diversificare il proprio approccio, ecco. E poi per l'ultimo posto sono un po' indeciso, perché come sai i cinefili sono poligami per vocazione. Allora, per l'ultimo posto, ma ultimo non in ordine di importanza, ma ultimo in ordine di citazione, io segnalerei questo film, Wajib, Invito al matrimonio, di Anne-Marie Jassir, una regista palestinese che ha realizzato un film estremamente importante su cosa fa l'occupazione militare israeliana al resto della popolazione palestinese. È un film politico, ma è anche una commedia drammatica, di quelle che avrebbe potuto fare un Monicelli o un Ettore Scola. È uno dei film più sorprendenti visti quest'anno. E se mi permetti, io Wajib lo citerei in tandem con L'insulto di Ziad Doueri. Sì. Perché sono due film che ci hanno raccontato degli aspetti del Medio Oriente che ancora, no, dell'aspetto del Medio Oriente da angolazioni inedite, ecco. Mi fermo qui perché poi vorrei citare anche altri film, però poi sforiamo, insomma. Allora, stavo controllando l'uscita dell'insulto in sala. Che, no, però è 6 dicembre 2017, quindi già dello scorso anno, infatti non mi suonava. Però gli altri ci siamo tutti. No? Gli altri perché ci siamo tutti. Allora, ricapitoliamoli, Giona. Allora, Lazzaro Felice, Chiamami con il tuo nome, Dogman, Wajib, Invito al matrimonio, e First Reformed di Paul Schrader. Perfetto. Allora, io ti ringrazio, auguri. Ringrazio io voi per l'invito in trasmissione. Giona, ci si vede, spero, in sala, e auguri per il prossimo anno. D'accordo, grazie mille a te Federico e agli ascoltatori. Ciao, a presto, ciao Giona. Buona serata, buona serata. Con Mazzino Montinari, per fare anche con lui un bilancio dell'annata cinematografica da gennaio a dicembre e fare anche, dare conto dei suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Mazzino, ben trovato. Grazie intanto per avermi chiamato e ciao Federico e buongiorno a tutti gli spettatori, ascoltatori. Beh, se troviamo di video ovviamente mi viene spontaneo, spettatori, e poi perché ci impegniamo in un Senti, che ne dici nel complesso di questo anno? Ma allora, ovviamente appunto come dicevo nella premessa, bisogna dividere la considerazione, almeno per quanto mi riguarda, in due parti. Io fondamentalmente mi occupo di documentari, per cui chiaramente ho una percezione di quello che è successo durante l'anno un po' distorta rispetto a quello che sono poi le classifiche o i gusti, le preferenze degli spettatori o comunque degli addetti ai lavori che frequentano le sale, le distribuzioni ufficiali. E da questo punto di vista devo dire che sono molto interessante, perché ci sono visti molti prodotti originali e come sempre c'è un'estensione internazionale abbastanza ampia, per cui si riescono a vedere molti lavori di provenienti insomma da paesi diversi tra loro, mentre per quanto riguarda le uscite in sala, quelle più chiamiamole tradizionali, mi sembra che non si esca poi dal cosiddetto triangolo, quello insomma Stati Uniti, Europa, diciamo Francia, Inghilterra e ovviamente poi l'Italia, che sono prima uscite durante l'anno. Da questo punto di vista non mi è sembrato di aver visto dei lavori che abbiano all'originalità o cambiato le sorti dell'audiovisivo. Abbiamo visto degli ottimi film, ovviamente, quello sicuro, e credo che poi le referenze mi omologherò molto. Miei amici e colleghi, insomma, per l'Italia credo che sia stato un anno normale, insomma, non ci sono stati grandi punte, non mi pare di aver visto dei film, ovviamente insomma tutti avranno citato Dogman di Garrone sul fronte della fizione, e sicuramente Martone per quanto riguarda le uscite più recenti, Capri Revolution, però insomma, diciamo, sono film che io trovo anche discontinui, quindi non mi sembra che siano i film maggiori di questi due autori citato. Forse la sorpresa dal punto di vista italiano è stato La terra dell'abbastanza dei Fratelli di Innocenzo, ma mi sembra che la novità più interessante sia questa, anche se mi sembra che poi agiscano i Fratelli di Innocenzo in terreno ancora abbastanza noto e battuto, quindi è interessante la loro storia, è interessante anche il modo in cui hanno lavorato sul film, però voglio dire, non è che una rivelazione da un punto di vista cinematografico, è una rivelazione da un punto di vista proprio autoriale, anche perché appunto, dicevo, si sono formati quasi da autodidatta, per cui è molto interessante anche la loro stessa vicenda artistica, per quanto poi hanno partecipato anche al film di Garrone Dogman in quanto consulente della sceneggiatura, credo, adesso non vorrei sbagliare. Poi, ecco, uno dei film italiani che sicuramente andrebbe citato, poi ce n'è uno in realtà che andrà, però non so se sta considerato come film italiano, ma uno che io citerei perché insomma, è molto interessante, non abbiamo una puntata per parlarne, è La storia dei Savoni di Stefano Savona, perché appunto è molto interessante il lavoro che ha fatto Stefano in questi anni su questo film, e che peraltro segna anche, secondo me, un punto di svolta nella sua filmografia, insomma, capisco sì. Che stiamo parlando di una classifica di film, quindi non si può parlare adesso di questo documentario che effettivamente praticamente era significativo, che in qualche modo arrivi da un autore che non stasse pochissimo in Italia. Se poi ti passo subito alla mia personalissima classifica, che certo. Poi insomma anche lì è un mix di, cioè le classifiche sono in realtà poi una manifestazione di ciò che una singola persona ha visto durante l'anno, perché poi ci sono, non si riesce a vedere tutti i film, quindi chiaramente sono molto molto molto personali le classifiche. Certo. E legate anche ai momenti personali, cioè io per esempio sono più la mia classifica tende di più a privilegiare i primi sei mesi dell'anno, perché poi con le selezioni a Festival di Torino diventa un po' più difficile andare in sala. Comunque, allora, io credo che al primo posto, non sarò molto originale come ne duole, ma non posso che mettere Roma di Alfonso Cuarón, perché okay. Comunque è il film, forse è il film anche più bello per tanti motivi, perché riesce a mettere insieme tantissime cose e anche qui non abbiamo il tempo per parlarne, però insomma mette la vicenda personale, la vicenda sullo sfondo, mette un contesto storico che di cui forse si parla meno, ma che comunque è importantissimo, e poi riesce a farlo con uno stile, con una classe che è spettacolare. E al di là del fatto poi della polemica, se il film vada visto in uno schermo grande o uno schermo un po' più piccolo dentro casa da soli, però insomma è comunque il film è quello. quindi secondo me è sicuramente il film dell'anno. Lo metterei insieme a in realtà l'altro film che mi ha colpito tantissimo, ma qui stiamo sempre parlando di autori che sono più che battuti, Il filo nascosto ovviamente di Paul Porter, Thomas Anderson, che prosegue insomma un percorso che secondo me lo rende l'autore degli ultimi 15-20 anni, insomma per tutti i film che ha fatto e per il modo in cui li realizza. Poi vorrei distaccarmi un attimo dal formato, insomma, dalla finzione, per mettere invece un film che è andato in sala, vado sul sicuro, ma non è che ha avuto chissà quale distribuzione, ed è Ex Libris di Wildman, perché anche questo insomma è un film che almeno è eccentrico ovviamente per il tipo di realizzazione, nel senso che non so se per chi l'ha visto, ma insomma è un film che racconta attraverso una collettività le attività della New York Public Library di New York, ed è molto bello vedere appunto questo istituirsi di un mondo, di una collettività, questo rapporto che c'è appunto tra un luogo e le persone che lo frequentano e che al tempo stesso frequentandolo appaiono, ma al tempo stesso lo costruiscono loro stessi quel luogo, lo istituiscono loro stessi. E Wildman, da grande osservatore, in qualche modo Deus Ex Machina, riesce a fare di questo luogo un mondo, come ho già detto in precedenza. Quindi mi sembra il film giusto da mettere per spezzare la continuità della finzione. E al quarto posto metto appunto il film italiano non italiano di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome. Anche qui insomma ci sarebbe un lungo discorso da fare, ma vi eviterò. Però insomma mi è piaciuto molto sia il modo anche libero di narrare di Guadagnino, sia anche le relazioni che lui racconta attraverso questo rapporto tra due uomini, e poi anche il rapporto che c'è tra il padre e il figlio, che è molto colpito e anche, se vogliamo, emozionato. E poi il quinto film che mi distaccherà da tutti gli altri, perché so che è stato molto odiato, è Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos. Sì, perché insomma anche qui mi sembra molto interessante il lavoro che ha fatto Lanthimos sulla violenza, sul dolore, sulle relazioni umane che trovano, che non si compiono, o che comunque nella quale tutto diventa mediazione o negoziabile, tutto diventa, il dolore diventa negoziabile e la morte stessa diventa negoziabile, e credo che sia lo specchio di un'epoca contemporanea che sarebbe molto da riflettere, per cui mi faccio subito e non vado avanti. Questi sono i 5 film. No, perché il film è anche più aspro, più difficile per certi versi, e quindi ben venga, anche perché insomma poi alla fine Roma è un film perfetto, e quindi è anche facile metterlo nella prima posizione. Il sacrificio del cervo sacro invece è un film che affronta, cioè che si mette anche un po' in gioco, insomma, e quindi affronta anche la possibilità di essere odiato da chi lo crede. Bene. Mazzino, è un piacere ogni volta e speriamo di vederci in sala. Un abbraccio e auguri. Auguri anche a voi e a te, ovviamente. E niente, spero che di essere stato un po' originale e un po' veritiero nella classifica dello stress. Bene, poi vedremo, tireremo le somme. Ciao Mazzino. Va bene, grazie a tutti, ciao. Siamo con il nostro Giorgio Gosetti, ben trovato Giorgio. Anche a voi, molti auguri, con il ritardo, un po' in anticipo, insomma andiamo a chiudere insieme le feste, va? Bene, allora con te anche per un bilancio di quest'annata cinematografica 2018, che ci dici? Che per il cinema italiano è stato un anno molto difficile, con troppo pochi soldi in giro, molto coraggio da parte degli autori, inevitabilmente meno da parte dei produttori per i problemi annosi e noiosissimi delle leggi che non entrano in funzione in tempo utile, che forse sono perfette, forse sono perfettibili, e perché tutto sommato l'internazionale non ci ha premiato quanto forse il talento italiano meriterebbe. Per l'internazionale mi pare un'annata bella piuttosto, un po' in linea con le ultime, cioè non con delle sorprese, proprio un paio di sorprese direi spiazzanti, non tantissime. E poi di che annata parliamo? Voglio dire, partiamo dal dopo Mostra di Venezia 2017 o partiamo dal primo gennaio 2018? Beh, direi dal primo gennaio. Perché tutto sommato, non lo dico perché tutto sommato alcune delle cose più spiazzanti e più originali, penso per esempio Amore e Malavita dei Fratelli Manetti, in realtà è un film che resta indietro sul 2017 da questo punto di vista, come uno dei miei film preferiti dell'internazionale, I segreti di Wind River di Taylor Sheridan, è uscito nel fine 2017. Quindi stiamo concentrati sul 2018. Ok. Senti, per quanto riguarda i tuoi cinque preferiti tra quelli usciti in sala? Li scegliamo 5 italiani e 5 internazionali o 5 in tutto? Io direi 5 in tutto. Proviamo a 5 in tutto allora. Sì. Metterei in testa la mia sorpresa maggiore dell'anno, che è Gli Incredibili 2 di Brad Bird, perché Brad Bird è un autentico e straordinario talento. Lo si confina facilmente al prodotto di Disney, ma ha cominciato con Il Gigante di Ferro lavorando con la Warner, è a mio parere un vero genio, un buon equivalente del Tim Burton dell'animazione ai tempi suoi. Si può dire? Sì, sì. Prodotto Disney, ma io perché dico che è molto intelligente. Poi metterei un film che non metterà nessuno, quindi siamo qui, spiazziamo un po', che è Il Verdetto di Richard Eyre con Emma Thompson. Okay. Ho trovato una delle sorprese più belle del cinema inglese e non solo di quest'anno. Tra l'altro continua ad essere in sala a Roma. Sì. Sì, è veramente un film secondo me da vedere, perché si può rimproverare a Richard Eyre di essere un regista teatrale molto bravo nella messa in scena. Si può dire che il libro di Ian McEwan è più che fedelmente riprodotto, ma secondo me è un film di tale intensità e valore anche per come racconta le cose che racconta, che merita davvero di essere visto. E Stanley Tucci è strepitoso. Poi metterei un film italiano, perché io credo che Il Vizio della Speranza di Edoardo De Angelis sia un film particolarmente forte e soprattutto la conferma di un talento che cresce da un film all'altro, e quindi premiato dal pubblico alla Festa di Roma, premiato secondo me da una critica che invece è stata qualche volta sopraccigliosa, ma non capisco perché. Ok. Metto un film molto classico, perché io faccio il giornalista, non c'è niente da fare, quando di giornali si parla mi commuovo un po', che è The Post di Steven Spielberg, perché quando Spielberg fa il serio è, se vogliamo, qualche volta un pochino didattico, un po' forse in